l'equilibrio come metafora di tutti gli aspetti della nostra vita economica, è l'equilibrio dei conti familiari, l'equilibrio dei conti delle imprese, delle banche, degli stati e più generalmente l'equilibrio dei mercati finanziari. In sostanza, se tutta una serie di squilibri che si sono accumulati prima della crisi e sono esplosi dalla crisi dovesse venire attenuato, allora ci troveremmo sulla strada giusta. Se invece non li attenuiamo, qualche cosa poi scoppia, cioè vuol dire che uno cade dall'asse. Allora, collegando la vostra analisi, che appunto identifica poi 7 debolezze europee, l'invecchiamento demografico, gli squilibri monetari, i tedeschi ultraortodossi, va bene essere ortodossi, ultraortodossi, meno bene, l'euro con il suo vizio di origine politico, le scelte geoeconomiche della Germania, la percezione di un complotto internazionale addirittura, che di dimensione psicanalitica, visto che in tedesco si dice la stessa parola che vuol dire debito, vuol dire anche colpa, pensate un po', no? Ma al di là di queste 7 debolezze europee, quello che è successo negli ultimi giorni sul budget europeo, sul mancato accordo per salvare la Grecia e in casa nostra sulla produttività, dove ci porta in quest'asse? Verso la scivolata o verso invece il proseguimento per la crescita? Direi che ci porta modestamente verso la scivolata. In realtà sono tutte debolezze che conoscevamo, in qualche misura ci aspettavamo, però poi vedercele di nuovo succedere davanti effettivamente è un po' deludente. Noi abbiamo delle riunioni che non concludono e questa è la costante, il filo che lega tra di loro tutta la vita dell'Unione Europea in campo economico degli ultimi 2 anni circa. Per cui scoppia una crisi, si convoca una riunione, si dice che si è raggiunto l'accordo qualche volta, ma comunque non è un accordo non definitivo e il ciclo ricomincia. E questo ciclo si ripercuote poi sui problemi diciamo dei singoli paesi e si ripercuote sui mercati finanziari creando debolezza e caos.